l'impatto penso che sarà abbastanza drammatico, come sarà per quasi tutti i comuni, gli enti, i cittadini, le imprese. Noi stiamo ragionando su un previsionale che potrebbe essere di spesa, come tutti sapete, più o meno poco oltre il 100% d'aumento, quindi vuol dire che i comuni che hanno più difficoltà economiche devono cominciare anche a ragionare sui servizi, su cosa hanno in piedi e rivedere un po' tutto, cosa che fortunatamente noi per quest'anno con le entrate siamo abbastanza a posto, quindi salveremo i servizi in corso per l'anno. Quest'altro anno sarà un nuovo modo di ragionare, però questo è appunto la cosa su cui proprio gli italiani dovranno pensare. Purtroppo le nostre programmazioni non sono mai fantastiche anche a livello nazionale, perché penso che il PNR poteva essere lo strumento proprio per potenziare fin dall'inizio tutto quello che era la spesa corrente, anche con interventi molto pesanti sulla produzione di energia, se non sull'efficientamento. Ed è un'occasione persa? Secondo me andiamo sempre molto avanti. Purtroppo l'Italia è un paese che più di altri ragiona più in una logica emergenziale che in una logica di programmazione e progettuale, no? Perché questa cosa qui, su quello che è strategico o meno, noi come comune da diversi anni abbiamo fatto tutto il cambio dell'illuminazione pubblica con illuminazione ad LED, quindi con dei risparmi del 60%, così come l'abbiamo fatto, iniziato a fare sulle palestre, le palestre scolastiche, le palestre comunali date in uso alle società sportive, così come l'abbiamo fatto sul palazzo comunale. Dal governo uscente sono arrivati dei trasferimenti, insomma ci sono previsti dei fondi per calmierare l'impatto sugli enti locali di questi rincari? Sono arrivati, considera che la logica, noi prevediamo un aumento poco oltre il 100%, quindi ragioniamo su una cifra fra energia elettrica e calore di un aumento dei costi di circa 500-550 mila euro, se non ci saranno altri aumenti ulteriori, e sono arrivati circa 70-80 mila euro. Quindi sì, insufficienti. Poi la misura diciamo che è nettamente insufficiente a quello che potrebbe essere il fabbisogno. Poi te lo dico, da un comune che quest'anno riuscirà a coprirli con risorse che aveva già in accantonamento, però non è una situazione che può essere uguale in tutta Italia, quindi mi chiedo come, cosa faranno comuni che non hanno avanzo, che non hanno altre risorse accantonate. Inevitabilmente si dovrà intervenire sui servizi, come dicevi prima. Certo, la prima cosa che tu trovi cos'è? O riduci i servizi o aumenti le tariffe. Poi stai ragionando su un aumento di tariffe e riduzione di servizi in un momento dove le imprese sono messe male, i cittadini hanno i loro problemi a casa con le utenze, e quindi purtroppo è tutta una mole di problemi che si accumulano e fai difficilmente trovi una via d'uscita. Noi proveremo a continuare sulla strada dell'efficientamento, così come abbiamo messo alcuni progetti, a migliorare o meno portare avanti quelle che sono le comunità energetiche, che già come Unione Reno Galliera avevo proposto circa 2 anni fa, anche con una conferenza, ti dico, una delle conferenze meno seguite della storia. Se la seguissimo oggi, probabilmente, che siamo in emergenza, diventerebbe un'ennesima conferenza seguitissima, cosa che all'epoca ci fu il 110 e abbiamo avuto un boom di ascolti. Purtroppo, come ti dicevo, noi continuiamo a ragionare in questa logica dell'ultimo minuto e non anticipatoria di problemi che invece sono chiari e si dovrebbe agire fin dall'inizio, anche solo per un principio ambientale, perché ricordiamoci che tutto il tema energia, sostenibilità fa parte di un macro tema che è quello dei cambiamenti climatici, quindi ridurre la produzione di CO2 e degli altri gas climalteranti.